Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Tutto quello che serve in termini di soldi lo mettiamo, perché è impensabile che in nome della stabilità europea crollino le scuole. Questa, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, la metafora che Renzi ha trovato per unire, diciamo, due argomenti cruciali: da una parte il terremoto e la messa in sicurezza, in particolare delle scuole, oltre che degli altri edifici, e questo braccio di ferro che continua sui conti pubblici, sulla flessibilità o meno con l'Unione Europea. Ne parleremo in parte, perché in realtà, per quanto riguarda la politica italiana, andremo più sulle dichiarazioni che ha fatto oggi Pierluigi Bersani, ex segretario del PD, che ha tirato diverse stoccate a Renzi, però ha detto anche se vincesse il no, il governo e Renzi devono restare lì. Poi dalla politica italiana in realtà saltiamo alla politica britannica, perché c'è una novità, un colpo di scena, come lo possiamo definire, nel senso che l'alta corte di Londra ha deciso che la Brexit deve essere votata dal Parlamento britannico, che non basta il referendum che c'è stato lo scorso giugno. E qui quali sono gli scenari che si apriranno lo scopriremo solo seguendo Effetto Notte stasera. E poi c'è un altro colpo di scena, se così possiamo definirlo, negli Stati Uniti, a pochi giorni dalle presidenziali, che naturalmente qui Effetto Notte e a Radio 24 seguiremo fino alla fine. C'è un testa a testa a questo punto tra Trump e Hillary Clinton. Sembrava in grosso vantaggio la candidata democratica, invece adesso sembra veramente un testa a testa. Parleremo anche di questo collegandoci con gli Stati Uniti. Voi, per le vostre osservazioni, le vostre riflessioni, avete sempre due canali privilegiati, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi e WhatsApp, che è 349-238-6666. 349-238-6666. Ma prima, come sempre, cerchiamo di capire in un riassunto che giornata è stata. Gran Bretagna, l'alta corte accoglie il ricorso degli attivisti pro Unione Europea e decide che Londra per la Brexit deve avere il via libera del Parlamento. Presidenziali americane, a 5 giorni dal voto c'è la rimonta di Trump, ora è testa a testa, l'appello di Obama fermiamolo, e oggi Melania in campo per il marito. Referendum costituzionale, Bersani dice non perdono a Renzi la tensione creata sul voto del 4 dicembre, ma se vince il no deve restare al governo. Terremoto, sono oltre 28.000 le persone assistite dalla protezione civile, ma ora si teme il maltempo. Immigrazione, nuovo dramma al largo della Libia, 239 dispersi e muore una calciatrice del Gambia. Polemiche per il rapporto di Amnesty sugli abusi ai migranti nei centri italiani. Lavoro occupati in aumento in un mese, calano anche gli inattivi, più persone sul mercato, la disoccupazione sale dell'11,7%. Il caso di Tiziana Cantone, chiesta l'archiviazione per gli amici sospettati di aver diffuso il video hard, 4 persone erano accusate di diffamazione. Calcio, 4 italiane nelle sfide di Europa League, Austria-Vienna, Roma 2-4 e poi Sassuolo-Rapid Vienna 2-2. E partiamo quindi, tosse permettendo, scusatemi se sentirete magari ogni tanto qualche colpo di tosse, partiamo dalle novità sulla Brexit e quindi dalla decisione dell'Alta Corte di Londra di accogliere il ricorso di un gruppo di attivisti pro Unione Europea che chiedono un voto del Parlamento di Westminster per avviare poi effettivamente l'iter della Brexit. Il giudice con questa sentenza ha dato quindi torto al governo della prima ministra Theresa May, che rivendica il pieno diritto di invocare l'articolo 50 del Trattato di Lisbona. Il principio fondamentale, ha detto il giudice dell'Alta Corte della Costituzione del Regno Unito, è che il Parlamento è sovrano. Estremamente soddisfatta per questa storica vittoria ottenuta oggi all'Alta Corte di Londra è Gina Miller, che è donna d'affari, attivista, filantropa, che ha organizzato e guidato la campagna per sfidare in tribunale il governo di Theresa May sulla Brexit. Cosa succederà adesso? Ne parleremo più tardi nel corso di Effetto Notte. E dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, con le presidenziali a 5 giorni dal voto c'è la rimonta di Trump, ora testa a testa, c'è l'appello di Obama che dice fermiamolo, e oggi è la moglie di Trump, Melania, in campo per il marito. A dividere Hillary Clinton e Donald Trump nei sondaggi ci sono ormai solo 1,7 punti. Secondo il sito Real Clear Politics, la candidata democratica ha il 47%, Trump in grande recupero al 45,3%. Sul fronte dei grandi elettori sarebbe a quota 265 contro i 273 di Hillary. Per conquistare la Casa Bianca ne servono 270. Un recupero che avrebbe convinto il tycoon a giocare nuovamente la carta Melania, Pennsylvania, dopo il silenzio seguito allo scandalo plagio del discorso per la convention di Cleveland, la signora Trump torna sulla scena con un comizio da Filadelfia. A sostegno della candidata democratica continua la campagna del presidente americano. Scegliete la speranza, così nell'appello che ha rispolverato uno dei mitici slogan della sua campagna elettorale del 2008. Il mondo della finanza, intanto, attacca Donald Trump. È una scelta pericolosa e distruttiva per il paese, scrivono in una lettera 370 economisti, inclusi 8 vincitori del premio Nobel. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Quali sono adesso quindi gli scenari che si aprono? Ce lo facciamo raccontare tra poco collegandoci con gli Stati Uniti. È la tosse. Il terremoto con una nuova forte scossa di magnitudo 4.8 che è stata registrata questa notte nel maceratese, e i disagi aumentano anche per l'arrivo del maltempo. Lunedì sindaci della zona del cosiddetto cratere, della zona rossa, saranno alla Camera. Oggi c'è stata la visita nelle aree terremotate della presidente della Camera Boldrini. Trema la terra e ora fa paura anche il cielo. Nuove scosse continuano a far sussultare le migliaia di sfollati tra Umbria, Marche e Lazio, mentre le nuvole calano cupe dal Monte Vettore, con i suoi squarci ben visibili anche ad occhio nudo. Il maltempo sta arrivando e in quest'angolo di Appennino non significa solo ancora più disagi per i 28.000 assistiti e per tutti gli altri che ancora dormono in auto, ma significa anche una paura peggiore, un rischio cioè inondazioni a causa delle frane, come ammette il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Non possiamo escludere che precipitazioni copiose e intense possano provocare solo ulteriori danni, ma qualche preoccupazione più importante. Esistono sul fiume Nero, come esiste il problema del rischio sulla viabilità. 22.000 scosse dal 24 agosto, una successione senza precedenti che sfibra la popolazione, quella dei comuni distrutti e quella di altri 9 comunque danneggiati, da Pietracamela a Campli, ma non inseriti nel cratere del sisma. E in questi giorni complicati si mettono al riparo gli sfollati, ma si salvano anche le opere d'arte, come l'Adorazione dei Magi di Tintoretto, portata via dalla Chiesa delle Vergini di Macerata, la cui cupola è a rischio implosione. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto emerge che quasi il 90% delle scuole italiane sono costruite senza criteri antisismici, soltanto una scuola su 2 ha certificati di collaudo e idoneità statica, e quanto riportato dal nuovo rapporto Ecosistema Scuola, messo a punto da Legambiente, presentato oggi a Roma. Sentiamo Vanessa Pallucchi, presidente di Scuola e Formazione dell'associazione intervenuta a Effetto Giorno. Su un campione di circa 6.000 scuole che sono nei capoluoghi di provincia italiani, e ci dicono che a fronte di un patrimonio abbastanza vetusto edilizio, per cui abbiamo ancora delle scuole che per un 39% hanno necessità di interventi di manutenzione urgente. Il 90% delle scuole senza criteri antisismici, o almeno sono state costruite così, non è detto che non ci siano stati interventi successivi però. Questo ce lo dovrebbe rivelare una sorta di libretto edilizio, è una delle nostre richieste. Adesso una notizia che è arrivata pochi istanti fa: un volontario italiano è morto in Burkina Faso, in Africa, aiutava i profughi del Sahrawi, aveva 66 anni, si tratta di Tonino Tonial, era originario della provincia di Udine, forse è stato un tentativo di rapina, ma sul corpo non ci sono segni di violenza. L'organizzazione non governativa per la quale lavorava assiste i profughi appunto del Sahrawi. Parliamo di migrazione. Almeno 239 persone risultano disperse dopo il naufragio di 2 barconi ieri al largo delle coste libiche, lo riferisce Carlotta Sami, portavoce dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. La notizia è stata confermata da 2 dei 29 sopravvissuti arrivati nella notte a Lampedusa. Al momento le salme recuperate sono 12. E si apprende che in uno degli ultimi naufragi è morta anche la 19enne calciatrice della nazionale del Gambia, Fatim Jawara. Sperava in una vita migliore, forse anche in una carriera in Europa. Il Gambia è uno dei paesi più piccoli e poveri dell'Africa, con poco meno di 1 milione di abitanti, ma è al quarto posto, secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, per numero di migranti che sbarca sulle coste italiane. Intanto arrivano le smentite al rapporto di Amnesty International, che parla di pestaggi negli hotspot italiani che accolgono i rifugiati. Che le forze di polizia operino violenza sui migranti è totalmente falso, sono le parole del prefetto Morcone, sconcerto anche da Bruxelles. Non ci è stato riportato nulla di tutto ciò, ha commentato Natasha Bertot, portavoce della Commissione europea. pestaggi, torture e umiliazioni in due casi, anche sessuali, nei confronti dei migranti che non vogliono fornire le impronte digitali. Questo dice il rapporto Hotspot Italia di Amnesty International. Su 174 interviste raccolte nel 2016 fra i migranti sbarcati in Italia, in 24 casi l'ONG ha registrato questo tipo di racconti. Il relatore del rapporto, Matteo De Bellis. Abbiamo anche ricevuto il resoconto di agenti di polizia che ci hanno detto che effettivamente è stato loro indicato dal Ministero degli Interni che possono usare la forza, cosa che prima non avveniva negli anni precedenti. Il rapporto parla di pestaggio e torture anche con l'uso di manganelli elettrici. Per il capo Dipartimento Immigrazione dell'Interno, Mario Morcone, sono falsità. Giuseppe Tiani, segretario generale del sindacato di polizia SIAP. Per quanto riguarda l'uso del manganello elettrico, no, lo escludo perché la polizia italiana non ha in dotazione né il manganello elettrico né la pistola elettrica. Poi, probabilmente non escludo che qualche piccolo abuso qualcuno possa averlo commesso, no? Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E arriviamo alla politica italiana, il PD sempre più diviso tra referendum e legge elettorale. L'ex segretario Bersani continua ad attaccare il presidente del Consiglio Renzi perché ha cambiato il sistema di voto a colpi di maggioranza, dice, usa toni apocalittici sulle riforme costituzionali. Sentiamo che cosa ha detto Bersani oggi a Repubblica TV. Non posso perdonare a Renzi e compagnia di aver imbracciato come governo un tema costituzionale per fare uno sfondamento del consenso, quello di aver messo la fiducia su una legge elettorale e quello di aver detto al mondo che c'è un giudizio di Dio su un appuntamento, quasi dicendo che il nostro paese è sull'orlo di qualcosa. Questa è una cosa italo-italiana. Il mondo non si preoccupi, il governo deve stare lì e starà lì. Poi torneremo a parlare anche oggi, poi il Presidente del Consiglio Renzi si è detto disposto a cambiare l'Italia con una legge elettorale, l'accoppiamento tra riforme costituzionali e legge elettorale viene contrastato dalla minoranza Dem che teme possa portare a una deriva autoritaria. Ma su cosa si vota il 4 dicembre? Che cosa comportano referendum e Italicum? Sentiamolo in questa scheda. Il 4 dicembre gli italiani sono chiamati a cambiare la seconda parte della Costituzione, che supera il bicameralismo perfetto e istituisce il Senato non elettivo di 101 sindaci e consiglieri regionali più 5 senatori nominati dal Capo dello Stato in carica per 7 anni. Il nuovo Senato non voterà la fiducia al governo, avrà competenza legislativa piena solo su riforme e leggi costituzionali. Altra cosa è l'Italicum, ovvero la nuova legge elettorale, che non è in votazione il 4 dicembre perché legge ordinaria, ha competenza solo per la Camera, prevede l'elezione di 630 deputati in 100 collegi plurinominali che eleggono da 3 a 9 deputati ciascuno in proporzione al numero degli abitanti. Ogni lista è composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati. La soglia di sbarramento è del 3% per ogni lista. Vince le elezioni la lista che ottiene il 40% dei voti e raggiunge 340 seggi. Se invece, pur raggiungendo il 40%, non ottiene 340 seggi, le viene attribuito un premio di maggioranza. Altrimenti si va al ballottaggio. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi dati sul mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione a settembre sale all'11%, più 0,2 su agosto ai livelli di febbraio scorso, ma allo stesso tempo sale anche l'occupazione, più 0,2% mensile pari a 45.000 unità e più 1,2% annuo, quindi più 265.000 unità. Scende invece la disoccupazione nella fascia 15-24 anni e si riduce al minimo storico il tasso di inattività al 34,8%. La segretaria della CGIL Camusso dice resta comunque alta la disoccupazione, serve un piano, mentre il ministro del lavoro Poletti replica dall'avvio del governo ci sono più 656.000 occupati. E ora il centro studi di Confindustria che traccia lo stato di salute dell'industria italiana. Fatichiamo a uscire dalla crisi, ma in Europa siamo al secondo posto. L'Italia arranca a uscire dalla crisi, ma è il secondo paese manifatturiero in Europa e il settimo nel mondo. Il centro studi di Confindustria traccia in un rapporto lo stato di salute dell'industria italiana. L'attività industriale è in ripresa nei paesi avanzati, l'Italia però fatica a ripartire, pur scalando una posizione nella classifica mondiale dei paesi manifatturieri, superando il Brasile. Un passo avanti, ma secondo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, non bisogna accontentarsi. I dati confermano che siamo il secondo paese industriale d'Europa, siamo al settimo posto nel mondo e abbiamo potenzialità rilevanti. Il problema non è dove siamo o dove potremmo andare, e su questo bisogna costruire una grande stagione che parta dalle fabbriche e anche dall'esterno delle fabbriche. Il nostro paese sconta un ventennio di stagnazione, dice il ministro dell'Industria Carlo Calenda. Per ricostruire la fiducia bisogna investire puntando su cultura, turismo, manifattura. E il ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan, torna sulla manovra. Il ruolo della legge di bilancio, dice, è avere una finanza pubblica solida, ma va declinata con le altre politiche e le riforme. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Parliamo di musica, Bad Romance di Lady Gaga, o questa che state sentendo, Bohemian Rhapsody dei Queen. I motivi che si fissano in testa per intere giornate sono quelli che sono trasmessi più frequentemente nei media e che hanno un'insolita struttura farcita di intervalli e ripetizioni che li distinguono dalle alte melodie pop. Lo indica il primo studio su larga scala sul perché alcune canzoni sono più, diciamo così, appiccicose delle altre. Uno studio dell'Università Britannica di Durham, al di là della curiosità capire come e perché certi motivetti si fissano nel cervello, può aiutare a far luce su come possono essere diversi da individuo a individuo i meccanismi che entrano in gioco nella percezione e nella memoria, o in fenomeni ancora poco chiari e difficili da afferrare come quelli legati alle emozioni e ai pensieri spontanei. E adesso ci colleghiamo subito con Giovanni Capuano, un altro tipo di musica, quella del calcio. Giovanni, come sta andando con l'Europa League e le italiane? Eccoci, ciao Roberta. È una musica che suona stonata fin qui, perché due partite si sono già concluse, una con un meraviglioso concerto, quello della Roma a Vienna, al Prater di Vienna, 4-2 sull'Austria-Vienna con doppietta di Dzeko, gol di De Rossi, gol di Nainggolan, la Roma che ha sofferto soltanto i primissimi minuti quando era data sotto con il gol di Kayode, ma poi ha dominato la partita e ha praticamente messo in ghiaccio anche la qualificazione, perché ora dopo 4 giornate ha 8 punti ed è in testa al suo girone, potrà chiudere il discorso tra 2 settimane in casa contro il Viktoria Pilsen. C'è poi da raccontare della beffa atroce del Sassuolo, che giocava contro l'altra squadra di Vienna, il Rapid, vinceva 2-0 con gol di De Freyler Ragusa a 4 minuti dalla fine, ma ha pareggiato 2-2, si è fatta raggiungere da 2 gol di Jeric e Kvitaivila, e a questo punto il Sassuolo rischia davvero di restare fuori, e sarebbe una beffa. Si giocherà tutto tra 2 settimane in trasferta in Spagna sul campo difficilissimo dell'Athletic Bilbao. In questo momento il Sassuolo è terzo nel suo girone. In campo ci sono da circa 13 minuti Fiorentina e Slovan Liberec, 0-0 risultato. La Fiorentina cerca la qualificazione questa sera perché in testa al suo girone, ovviamente gli occhi di tutti sono puntati soprattutto sull'Inter. 0-0 a Southampton quando siamo all'inizio del 14° minuto, è la prima e forse l'ultima di Stefano Vecchi sulla panchina che è stata di debutto. Vecchi che ha scelto un 4-4-1-1 un po' particolare per questo suo debutto su una panchina dei grandi. Ci sono Ranocchi e Miranda centrali di difesa, Candreva e Perisic esterni, Banega trequartista alle spalle di Icardi. C'è soprattutto la necessità per l'Inter di non perdere, altrimenti sarebbe eliminazione dall'Europa League. Primi minuti difficili per la squadra nerazzurra, con gli inglesi che hanno creato un paio di occasioni. Grazie Giovanni Capuano, a dopo per sapere come proseguono le squadre ancora in campo. Adesso ci prendiamo questa piccola pausa per aggiornare chi viaggia. Voi proseguite con i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure al numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Per esempio Carlo, a proposito della decisione sulla Brexit dell'Alta Corte di Londra, scrive: neanche noi ci saremmo andati a infilare in un vicolo costituzionale così cieco come gli inglesi. Meraviglioso, dice Carlo, e tra poco ne parleremo. E poi invece Balanzone scrive così, si firma: l'intervento sugli edifici scolastici era uno dei capisaldi del governo Renzi al momento dell'insediamento, peccato che Renzi non aveva specificato che sarebbero stati attuati dopo i terremoti. Naturalmente la battuta, però su questo piano si spera che adesso sia definitivo, in particolare per le scuole e anche per gli altri edifici. Non sarà facile rifare buona parte d'Italia, consolidarla almeno, però visto che se ne parla da tanto tempo, siamo diventati esperti nel dopo terremoto, cerchiamo di diventarlo prima. A tra poco. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie più importanti della giornata le avete sentite, ve le ho raccontate come sempre nel riassunto iniziale. Adesso cominciamo, tu stai permettendo, ad approfondire i vari alcuni temi in particolare. Le presidenziali americane, si vota martedì prossimo, tra l'altro vi ricordo ancora una volta che Radio 24 farà una serie di speciali e già Effetto Notte partirà alle 21 dell'8 novembre, come sempre però proseguirò fino a mezzanotte e poi ci sarà ancora la diretta, andrà avanti non stop fino alla elezione del nuovo presidente americano. Adesso parleremo di quello, poi cercheremo anche di capire che cosa succede con questa decisione dell'Alta Corte di Londra per quanto riguarda la Brexit. Tra l'altro voi continuate con i vostri messaggi al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Questo ascoltatore, Damiano da Roma, dice: ricevo e inoltre volentieri un aiuto concreto per i terremotati che tutti possono dare, acquistare i prodotti dei nostri luoghi, i salumi di Norcia, il Clauscolo, il Varnelli, le lenticchie di Castelluccio, la vernaccia di Serra Petrona, il cacio di pecora sopravvissana, richiedete prodotti dei sibillini, che siano lenticchie, tartufi, formaggi, salumi, eccetera, tutto quello che insomma viene dai luoghi del terremoto, naturalmente per aiutare un po' la gente, le attività, gli imprenditori, chi lavora insomma e chi vive in quelle zone. Ora sono acceso puntualmente a Radio Le 21, vi ricordo quali sono i titoli principali. Schiaffo alla May, a Theresa May in Gran Bretagna da parte dell'Alta Corte, il Parlamento deve votare la Brexit e quindi c'è stato l'accoglimento del ricorso degli attivisti pro Unione Europea. E poi terremoto, arriva il maltempo, Renzi incalza l'Unione Europea, scosse senza fine in quei luoghi e Bruxelles dice: ci siamo, aspettiamo le vostre richieste. Per le presidenziali americane la rimonta di Trump, ora è testa a testa con Hillary Clinton e c'è l'appello di Obama, fermiamolo. Intanto Melania, moglie di Trump, è scesa in campo, dice: con lui l'America è grande. Referendum slitta, la sentenza di Milano sul ricorso contro il quesito, quello del costituzionalista Onida. Renzi sfida Grillo, dice facciamo un confronto, Grillo gli risponde vediamoci in piazza e Renzi replica o si cambia o l'Italia non migliora. Poi migranti, nuovo dramma al largo della Libia, 239 dispersi, polemiche per il rapporto di Amnesty che parla di torture in alcuni centri di accoglienza italiani e muore fra gli altri una calciatrice del Gambia. Occupati in aumento in un mese, calano anche gli inattivi, cioè coloro che appunto non studiano e non lavorano, ci sono più persone insomma sul mercato del lavoro. E poi alla franco-marocchina Slimane il prestigioso premio concorre, la scrittrice 35enne che si impone con la sua crudele chanson douce. Donald Trump will make America fair. He will make America safe. He will make America prosperous. He will make America proud. And yes, this man I know so well, Donald Trump, with your help and God's grace, will make America great again. Quindi Melania Trump che si rivolge all'elettorato e dice con Donald Trump e con la grazia di Dio, anche con la volontà di Dio e voi stessi, voi con il vostro voto farete l'America grande. Presidenziali americane quindi dell'8 novembre, si vota martedì prossimo, vi dicevo a meno di una settimana Donald Trump è in grande recupero, questa è la notizia. Sul fronte del numero dei grandi elettori che sono poi quelli decisivi per la vittoria, però è anche vero che il sito specializzato Real Clear Politics, specializzato nella media dei principali sondaggi, dice che a dividere Hillary Clinton e Donald Trump ci sono solo 1,7 punti a 5 giorni dal voto. C'è il nostro Marco Valsania, col quale ci colleghiamo, corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti. Caro Marco. Buongiorno, buonasera. Così posso un po' tossire nel silenzio. Senti, ecco, ci sono tra l'altro c'è un allarme diffuso perché ieri le borse europee in rosso per la paura che vincesse, che vinca Trump. Oggi 370 economisti contro Trump dicono che è un rischio per il paese e anche ci sono dei premi Nobel tra questi. Poi addirittura l'ONU dice sarebbe un pericolo la vittoria di Trump perché probabilmente lui ha in mente un divorzio. Stati Uniti sono tra i principali contributori dei finanziamenti per l'ONU. E qual è la situazione, Marco? C'è effettivamente questo testa a testa a questo punto? Sì, sicuramente quello che è sicuro è che c'è un assottigliarsi dei vantaggi nei sondaggi per Hillary Clinton, un duello quasi alla pari nei consensi nel consenso popolare, stando ai sondaggi più recenti. Quanto questo poi si traduca in chance di vittoria elettorale, sorpresa diciamo elettorale a martedì, è ancora un po' presto per dirlo, ma è stato sufficiente a portare una certa dose di nuovo nervosismo sui mercati e anche tra influenti commentatori, economisti, policy maker, no? come elencavi tu, perché comunque le chance di una sorpresa in uscita dalle urne che premi Donald Trump sono, ecco, questo si può dire, sono sicuramente in aumento in questo momento. È possibile, per esempio, Marco, se ci si chiede quali sono gli americani che votano Trump e perché, è diventato praticamente, secondo gli osservatori, la voce di molti americani delusi e impauriti ultimamente? Ma sì, ci sono molteplici ragioni, come sempre, per i fenomeni complicati come Trump. Cioè, il fenomeno complicato più del personaggio, che va al di là del personaggio stesso e del dibattito sulle sue qualifiche, sulla sua presentabilità. Alla fine riflette varie cose, riflette fondamentalmente il disagio che c'è in una parte della popolazione, una parte degli elettori americani, per le difficoltà dell'economia, che comunque ci sono anche in questo periodo di crescita, e quindi con interi diciamo fasce della popolazione, dei lavoratori che rimangono sostanzialmente esclusi o comunque ai margini dei vantaggi generati dalla ripresa. E in generale c'è anche lo scarso entusiasmo che un politico come Hillary Clinton è riuscita a generare al confronto del suo predecessore a questo punto, cioè di Barack Obama, un politico quindi diciamo molto, se si vuole, tradizionale, al di là che eleggere la prima donna presidente non sia affatto una questione da poco, ma lei come leader politico è sicuramente un politico con caratteristiche abbastanza tradizionali in un'era in cui, in un momento in cui l'appello all'outsider, al fascino dell'outsider lanciato da Trump e quindi così al ribaltamento delle logiche tradizionali fa presa ben al di là delle sue proposte più o meno credibili, più o meno realistiche. Ecco Marco, le stai citando appunto, prima di lasciarci, che poi Marco Vassani, ve lo anticipo, sarà con noi lungamente nella non stop che faremo l'8 novembre sulle presidenziali americane. Marco, intanto per chiudere, ci dici sinteticamente quali sono i tre punti principali del programma di Trump e i tre punti principali di quello di Hillary Clinton? Ma direi che i tre punti principali del programma di Trump li ha anticipati Melania, fondamentalmente. Che sentivamo prima, sì. Faremo l'America grande, faremo l'America grande e faremo l'America grande. Vabbè, tre volte grande, insomma. Capito. Cioè, alla fine tre volte tanto. Un messaggio, molto, se si vuole, idealistico in questa chiave, che non va non va a toccare veramente le proposte, i problemi concreti, ma fa appello quasi a una specie di immaginario collettivo, cioè serve un leader diverso, serve una persona diversa alla Casa Bianca per far rivivere le glorie dell'America nel suo insieme, mentre al contrario Hillary Clinton ha un programma se si vuole molto dettagliato, molto fatto di cose pragmatiche e quindi riforme fiscali, investimenti pubblici, riforme dell'istruzione e della sanità che ampino il livello di assistenza, e tutto articolato con incrementi anche del carico fiscale sui redditi più abbienti che servono a finanziare queste proposte. Ecco, però proposte molto pragmatiche che in questa fase hanno qualche difficoltà a mobilitare le masse. Se posso dare un ultimo avvertimento in chiusura, è che bisogna stare attenti però appunto a dare in questo clima troppo anche forse retta a singoli sondaggi che hanno dimostrato una discreta dose di volatilità e che quindi lasciano certo una dose di suspense, ma non necessariamente anticipano, ecco, non necessariamente un come succede recupero di Trump anche in Italia. Vediamo un po', poi Marco, se non succede nulla di eccezionale ci risentiamo direttamente nella non stop di martedì, eh? Grazie intanto. Benissimo. Ciao Marco, e vota bene, ciao. Ora dalla politica americana passiamo a quella britannica, perché si torna a parlare di Brexit. C'è questa novità che riguarda l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, decisa, vi ricordate, no, dal referendum dello scorso 23 giugno. Che cosa è successo? Che l'Alta Corte di Londra ha accolto il ricorso di un gruppo di attivisti pro Unione Europea che chiedono il voto del Parlamento sulla Brexit. Il giudice dell'Alta Corte ha quindi dato torto al governo di Theresa May, che rivendica invece il pieno diritto di invocare l'articolo 50 del Trattato di Lisbona. Ha detto il giudice dell'Alta Corte: il principio fondamentale della Costituzione del Regno Unito è che il Parlamento è sovrano. Quindi si è detta molto soddisfatta al settimo cielo per questa storica vittoria. Gina Miller, che è donna d'affari, attivista, filantropa, che ha organizzato, lei ha guidato la campagna per sfidare in tribunale il governo di Theresa May sulla Brexit. Si è quindi aperto il caso giuridico costituzionale più importante da generazioni. Si riapre quindi la partita sui tempi e modi dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Ne parliamo con Domenico Maria Bruni, docente di pensiero politico europeo alla LUIS e esperto di Gran Bretagna. Buonasera professor Bruni. Buonasera. Quindi una novità, un colpo di scena. Poi, al di là, prima di rispondere su questo, mi scusi professor Bruni, io mi chiedevo, tutto sommato non sembra così peregrina la necessità che un Parlamento sia il Parlamento, no? Quindi eletto dai cittadini, rappresentanti dei cittadini, a votare sì o no a una decisione così fondamentale per uno Stato come la Brexit. Che come mai soltanto adesso interviene l'Alta Corte sul voto del Parlamento? La Corte interviene adesso perché c'è stato, come diceva lei giustamente, questo ricorso da parte di questo gruppo di attivisti, quindi si è pronunciata su richiesta di un gruppo di cittadini. Non ha per competenza, non è una Corte costituzionale, è un tribunale ordinario, perché non esiste una Corte costituzionale, un equivalente di una Corte costituzionale in Gran Bretagna, non essendoci una Costituzione formale. Sì. E quindi interviene in questo caso per dare un'interpretazione su una istanza presentata da un gruppo di cittadini. L'aspetto cruciale appunto è quello che ricordava lei, e cioè il fatto che questa che la Corte ha giustamente sottolineato come all'interno dell'ordinamento britannico il referendum di fatto non esiste come istituto giuridico, non è altro che una consultazione ma senza alcun valore giuridico né vincolante, quindi le decisioni che vanno ad inficiare sulla politica interna o la politica estera della Gran Bretagna, che modificano le leggi della Gran Bretagna, come il caso dovrebbe essere il caso della Brexit, devono essere votate dal Parlamento, perché è l'unica sede costituzionalmente deputata a risolvere queste questioni. Bruni, non allora possono essere aggirate. È chiaro che sorge spontanea, come si dice, la domanda: perché non ci hanno pensato prima? Allora, ci sono due, diciamo, bisogna tenere presente l'aspetto appunto costituzionale delle regole del gioco istituzionale e l'aspetto politico. Ovviamente quando è stato indetto il referendum Cameron era convinto di vincerlo, ovviamente, questo va sempre tenuto presente, e l'ha fatto di vincerlo pensando che vincesse, pensando il no all'uscita dall'Unione quindi Europea, la permanenza del Regno Unito all'interno dell'Unione Europea, e ha dovuto fare questa cosa perché aveva questo, diciamo, ha dovuto prevedere questo passaggio perché era sostanzialmente in difficoltà all'interno del suo stesso partito della forte opposizione interna, quindi ha dovuto utilizzare questo mezzo, questo strumento per cercare di compattare il partito. Il gioco non è riuscito, come tutti sappiamo, e quindi da lì sono venute fuori tutte queste complicazioni che adesso la Theresa May sta cercando più o meno abilmente, forse in questo momento meno abilmente di affrontare. Di professor Bruni, se lei dovesse dire adesso sinteticamente che succede? Allora, penso ci possano essere tre ipotesi. A questo punto, ipotesi numero uno, che il governo faccia marcia indietro rispetto alla Brexit, rispetto alla dichiarazione di Theresa May, Brexit means Brexit, come ricordiamo, e decida di ascoltare la diciamo, di seguire la sentenza dell'Alta Corte e quindi di seguire l'iter parlamentare, il che però implica tempi molto più lunghi rispetto alle scadenze che May aveva previsto, cioè entro marzo dell'anno prossimo, di attivare la clausola dell'articolo 50, e soprattutto la pone in una condizione difficile, perché a quel punto dovrà presentare alla House of Commons diciamo, le linee guida della sua politica per le trattative con Bruxelles, e quindi a quel punto in un certo senso c'è anche il problema che scoprirà le carte che vorrà giocarsi durante la trattativa, e quindi darà un vantaggio anche alla controparte europea nel corso poi del... Quindi un aspetto potrebbe essere questo. C'è anche il rischio ovviamente che si spacchi il partito conservatore all'interno della Camera dei Comuni, perché ovviamente il partito è molto diviso da questo punto di vista, quindi c'è anche il problema di come tenere insieme la maggioranza del partito. Terzo punto. Sono divisi anche i laburisti su questa questione, quindi potrebbero anche nascere delle maggioranze trasversali, ad esempio. Quindi la situazione è molto problematica. Ecco. L'altra opzione potrebbe essere che il governo possa in un certo senso provocare le elezioni anticipate. Perché? Perché in questo modo potrebbe presentarsi davanti agli elettori, chiedere un mandato chiaro in un senso o nell'altro, quindi in questo caso la May si presenterebbe con una proposta politica per la Brexit, proseguire quella direzione. Avere un chiaro mandato dal popolo attraverso appunto una maggioranza parlamentare che chiaramente a favore del professor Bruni. In chiusura io direi che vedo un gran caos e sono affari loro a questo punto, quindi grazie professor Domenico Maria Bruni, veramente si sono infilati in un tunnel piuttosto contorto, vedremo come procederanno a seconda di queste tre opzioni che le citava. Grazie professore, adesso grazie direi a lei. Grazie, mentre proseguono tantissimi vostri messaggi soprattutto sul presidenziale americano, 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Effetto Notte. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Le notizie più importanti le avete sentite diverse volte, abbiamo approfondito le elezioni americane, abbiamo parlato di questa novità sulla Brexit in Gran Bretagna, e queste appunto sono le notizie più importanti. Gran Bretagna, con l'Alta Corte che accoglie il ricorso degli attivisti pro Unione Europea e decide che Londra per la Brexit deve avere il via libera del Parlamento. Le presidenziali americane, con, secondo i sondaggi, questo testa a testa ormai tra Donald Trump, Hillary Clinton, e poi il referendum costituzionale per quanto riguarda la politica italiana, con Bersani che dice: non perdono a Renzi la tensione creata sul voto del 4 dicembre, ma se vince il no deve restare al governo. E proprio di questo parliamo con Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Ciao Barbara. Buonasera a tutti. Oggi protagonista torna della politica italiana la frattura dentro il PD, no? Con Bersani che a Repubblica TV ha attaccato Renzi dicendo: non gli perdono appunto la tensione che ha creato sul referendum con questi avvertimenti apocalittici, e poi dice: però se vince il no il governo deve restare, perché non c'entra niente col referendum e anche Renzi resti al suo posto. Bersani ha anche detto: stiamo tirando la volata in questo modo, così come si sta comportando Renzi, a una nuova destra, la sinistra torni a fare il suo mestiere. Sì, diciamo che mi sembra ormai evidente che non ci sono spazi per ricucire, nonostante il tentativo che stia facendo il PD. E Cooperlo anche, no? Che si è staccato da Bersani, stava cercando un po' di mediare in questi giorni. E continua a mediare, però lì c'è il problema che non vogliono creare una fattura nella minoranza. Cooperlo, che è uscito fuori un documento di questa commissione sulle modifiche all'Italicum, è stato già bruciato dall'ala bersaniana, che ha fatto sapere, Cooperlo invitava nei prossimi giorni, ha detto: ne discuterò con i colleghi della minoranza PD per assumere appunto una posizione comune, e invece la risposta è stata immediata: se Renzi voleva cambiare doveva presentare un disegno di legge in commissione affari costituzionali. Quindi il tentativo ormai mi sembra destinato a naufragare, e soprattutto mi sembra che ormai Bersani, l'ala bersaniana, sia intenzionata a spingere sul no, quindi da questo punto di vista non vedo possibilità. Il fatto che poi Bersani dica che Renzi debba restare al governo anche Successivamente alla eventuale sconfitta referendaria, questo è tutto da vedere, insomma, perché poi si apre tutta un'altra partita lì. Perché in caso di vittoria del no, insomma, si vede anche nel centrodestra. Cioè, oggi Berlusconi ha ribadito in una riunione con lo Stato Maggiore di Forza Italia il no, e Gianni Letta, intervenendo in questo consesso, ha detto se vince il no, a quel punto noi torniamo protagonisti, perché il grande obiettivo poi di che si dica, anche della stessa minoranza, dei partiti minori, è quello di tornare al proporzionale e quindi di come dire, di fare dell'Italia un po' quello che sta avvenendo anche in altre parti, cioè di arrivare poi a una sorta di imposizione delle larghe intese, perché poi con il proporzionale per fare un governo ti devi alleare e vista la situazione attuale avrai da una parte i 5 Stelle e dall'altra parte il centrodestra e il centrosinistra che se per governare dovranno inevitabilmente allearsi. Questo mi sembra un po' il quadro che ci si potrebbe proporre all'indomani di una vittoria del no. Dall'altra parte c'è chi dice che se invece dovesse prevalere Renzi porterebbe il paese alle elezioni per legittimare, diciamo, il suo governo, cioè, insomma la sua premiership, visto che non è passato dal voto. Però insomma la frattura nel PD mi sembra ormai insanabile, se da questo punto di vista non vedo spazi proprio, non ci sono spazi. Quindi secondo te, ultima cosa Barbara, se dovesse mai vincere il sì, che cosa farebbe il PD a quel punto? Beh, sarebbe la vittoria indubbiamente della maggioranza del partito, del segretario. Però Bersani ha detto anche oggi, guai, sbrano chi dice che io sono incoerente o che lascerei, nessuno mi può togliere via dalla ditta a cui sono leale, dal PD. Quindi... Ma in realtà nessuno, cioè diciamo la verità, fino adesso nel PD nessuno è stato cacciato, cioè, se ne sono andati, quindi Bersani dice così, e quindi non se ne andrà, rimarrà in un partito in cui è minoranza finché resterà Renzi segretario, poi ci sarà un congresso e a quel punto è chiaro che sull'onda del sì a questo congresso Renzi si presenterebbe come vincitore e credo che difficilmente potrebbe essere sfidato da qualcuno. Nel caso invece di vittoria del no, si anticiperà questo congresso che dovrebbe avvenire alla fine del 2017, probabilmente verrebbe anticipato e a quel punto si conterebbe. Benissimo, grazie intanto Barbara Fiommeri e buona grazie serata. Grazie a voi, buona ciao sera. Barbara, ciao. Direi è tempo di aggiornare chi viaggia, sì. Stufe, caldaie e termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, i vostri messaggi sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Un ascoltatore, replicando a un messaggio di prima, dice: veramente nel primo bilancio approvato dal governo Renzi sono stati stanziati e spesi diversi miliardi per la messa a norma delle scuole, dice. Poi invece, scusate, sul presidenziale americano Simone scrive: secondo me il sistema economico e la democrazia americana possono reggere anche un Trump, non vedo pericoli particolari per il mondo, peggio di Bush Junior e anche di Obama in politica estera è difficile che si riesca a fare, dice. Tra poco ci sarà lo spazio europeo, vi ricordo velocemente le notizie principali, i titoli principali: Gran Bretagna, l'alta corte accoglie il ricorso degli attivisti pro Unione Europea, decide che Londra per la Brexit deve avere il via libera del Parlamento. Presidenziali americani a 5 giorni dal voto, c'è la rimonta di Trump, ora è un testa a testa, c'è l'appello di Obama, fermiamolo, e oggi Melania, moglie di Trump, è scesa in campo per il marito. Referendum costituzionale, Bersani dice: non perdono a Renzi la tensione creata sul voto del 4 dicembre, ma se vince il no deve restare al governo, ne abbiamo appena parlato. E poi terremoto, sono oltre 28.000 le persone assistite dalla protezione civile, ma ora si teme il maltempo. Immigrazione, scusate, nuovo dramma al largo della Libia, 239 dispersi, muore una calciatrice del Ghana. Cambia polemiche per il rapporto di Amnesty sugli abusi ai migranti nei centri italiani e Europa. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. Parliamo quindi, avvicinandoci alle elezioni americane, dei rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti. Sono amiche per la pelle, le due delegazioni si incontrano regolarmente due volte all'anno in Europa e negli Stati Uniti. Bentrovati gli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Nella storia del Parlamento europeo, i rapporti interparlamentari più lunghi e intensi sono quelli con il Parlamento europeo e il Congresso degli Stati Uniti d'America. Risalgono al 1972, anno in cui per la prima volta una delegazione del Congresso statunitense venne in visita al Parlamento europeo. Le due delegazioni si incontrano regolarmente due volte all'anno, in Europa e negli Stati Uniti. Quando si tengono nell'Unione Europea, gli incontri sono solitamente organizzati nella capitale del paese che detiene nella presidenza dell'Unione. Ne parliamo con l'europarlamentare Fabio Massimo Castaldo, che saluto. Europa e America, amiche di vecchia data. Sì, assolutamente, non si può negare che gli Stati Uniti siano il primo partner commerciale, ma soprattutto politico dell'Unione Europea in questo momento. Le relazioni sono consolidate da decenni, l'Unione Europea ha anche una delegazione che cura i rapporti con gli Stati Uniti d'America ed è questo un pilastro anche nel quadro delle relazioni euroatlantiche. In cosa consiste il lavoro delle due delegazioni, quindi? Sostanzialmente c'è un confronto costante sui vari dossier, in particolare in questo momento c'è una grande attenzione alla politica commerciale, al famoso TTIP, che però è molto avversato anche da diverse popolazioni europee, da diverse categorie, tra cui gli agricoltori, ma potrei parlare anche dei piccoli e medi imprenditori che vedono in esso più una minaccia che una risorsa. Ad ogni modo, le delegazioni si confrontano costantemente. Certo, bisogna dire che rispetto ad altre delegazioni forse la diplomazia parlamentare è meno incisiva, se non altro perché i rapporti anche tra le cancellerie degli Stati membri europei e Washington sono già molto consolidati e molto forti, ma anche perché il Presidente degli Stati Uniti tendenzialmente preferisce anche confrontarsi con il Presidente della Commissione o tutt'al più con il Presidente del Consiglio. Che cosa succederà dopo le elezioni? Proviamo a tracciare un'ipotesi di futuro nelle relazioni Europa-America. Beh, in questo momento più che di relazioni Europa-America parlerei di relazioni tra Europe e America. Perché questo gioco di parole? Perché l'Unione Europea non è stata mai tanto divisa quanto oggi. Possiamo osservare una divisione in più gruppetti di stati dagli interessi contrapposti. Queste elezioni saranno cruciali perché se vincerà la Clinton vedremo uno strappo fortissimo rispetto alla politica obamiana. Forse si tornerà a una maggiore presenza e anche forse una maggiore aggressività degli Stati Uniti in Medio Oriente. Se vince Trump è un grandissimo punto interrogativo, un'incognita, perché sulla politica estera lo vediamo estremamente debole, confuso, spesso ha altalenato posizioni estremamente diverse, quindi sicuramente ci sarà un riavvicinamento Stati Uniti-Russia che potrebbe in sé non essere sbagliato, però su tanti altri dossier l'incertezza e la paura dominano, quindi qualsiasi sarà il risultato che accadrà ci sarà un rimescolamento di carte importante e avrà dei riflessi immediati anche sulle negoziazioni, in particolare quella sul TTIP che in questo momento è di fatto arenata. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Ora invece l'incontro con l'Europa League con il nostro Giovanni Capuano. Giovanni, come stanno andando le partite? Sta succedendo letteralmente di tutto. Qualche istante fa, ma stiamo ancora in cronaca diretta, in pratica Handanovic ha parato un calcio di rigore al Southampton, siamo nel quarto minuto di recupero del primo tempo, l'Inter sta vincendo per 1-0, il gol lo ha segnato Icardi al 33esimo ed è una partita bella che sta creando grandi emozioni con tante occasioni. Vi avevamo raccontato di un ottimo inizio del Southampton, poi l'Inter sui nervi ha reagito, ha giocato una buona seconda parte del primo tempo, ha trovato il gol meritato con Icardi, c'è stato questo calcio di rigore proprio allo scadere del primo tempo, assolutamente inventato dall'arbitro Gil, polacco, per un tocco di braccio di Perisic molto presunto, molto fiscale, però poi si è accesa una mezza rissa in area di rigore. Candreva ha tirato una bracciata a un avversario, ha rischiato seriamente l'espulsione, questa sì ci sarebbe stata, è stato soltanto ammonito e l'arbitro ci ha messo 4 minuti a rimettere tutti tranquilli, poi il calcio di rigore battuto da Tadic e parato da Handanovic, quindi Inter avanti 1-0. L'altro finale del primo tempo è il 2-0 della Fiorentina sullo Slovan Liberec, i gol di Ilicic sul calcio di rigore alla mezz'ora e il raddoppio di Kalinic al 42esimo, sempre del primo tempo. A te. Grazie Giovanni Capuano e con questo ci lasciamo brevemente, vi riaggiorno poi alle 22.